Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Aleggia da giorni con i numeri che salgono ancora, ma tutti vogliono evitarlo, anche perché un nuovo lockdown rappresenterebbe un fallimento. La Sardegna è già pronta, mentre altre regioni, tra coprifuoco e regole più strette, si muovono, scontrandosi a volte con il governo. I contagi aumentano ancora, 16.000 casi accertati nelle ultime 24 ore e 170.000 tamponi eseguiti, un rapporto tra test e positivi che risale sopra il 9%. In aumento anche i decessi, 136. Le amministrazioni sono al lavoro per reperire altri posti letto. Salgono a 9.600 i pazienti ricoverati, 992 quelli in terapia intensiva. In sofferenza ormai anche il tracciamento, troppi focolai accesi senza che sia stata trovata l'origine. Devo dire che c'è una certa difficoltà nell'inseguire i numeri, difficoltà da parte dei comuni cittadini non addetti ai lavori. È vero, è reale il problema che abbiamo noi che ci occupiamo di informazione e comunicazione. La continua ricerca di raccontare, riferire l'ultima valutazione rispetto al problema principale che sta attraversando oggettivamente le vite di tutti noi è legato a delle valutazioni numeriche, oltre che a delle valutazioni a spettro più generale, come abbiamo già detto nella giornata di ieri, molto influenzate anche dal nostro pregiudizio, dal nostro orientamento e anche dalla, diciamo, nostra convinzione politica. Questo non dovrebbe essere, ma questo è umano che accada. Ricordo che ieri abbiamo fatto una trasmissione in cui ho sentito il sentimento del pubblico, sentimento medio di chi ci ascolta, che in parte può essere inteso come il sentimento medio degli italiani tutti. Cosa è emerso la giornata di ieri rispetto alla situazione che, come ho detto, stiamo vivendo? Il sentimento generale porterebbe in modo principale ad attribuire alle scelte politiche, istituzionali, la difficoltà crescente. Una parte sempre cospicua si fa una sorta di autocoscienza, comportamenti non regolari, non rigorosi da parte dei cittadini, e solo una piccolissima parte, devo dire un 10% delle persone che hanno risposto alla nostra richiesta di opinione, ancora sulla posizione che esiste un'immensa e forse strumentale ipervalutazione del problema, che non è con tinte così esasperate come molti la stanno percependo. Ancora serpeggia l'idea, c'è un allarmismo, c'è un senso di oppressione, c'è un desiderio di imporre una segregazione dei cittadini, un attentato alla libertà. Così ho riassunto la giornata di ieri. Oggi, dopo aver lungamente pensato con le persone che lavorano con me, abbiamo pensato forse era giusto dare un'appendice alla giornata di ieri. Ieri vi avevo già citato quella che secondo me è una delle fonti più attendibili di analisi rigorosa dei dati, dati molto difficili da interpretare anche perché cambiano continuamente, che è attendibile proprio perché ha un suo settimanale rifare il punto, quindi c'è un respiro maggiore. Rispetto a quanto abbiamo detto ieri, se guardiamo i report quotidiani, i dati sono continuamente cambiati, ma per avere forse un'indagine, un'analisi più di respiro su alcuni punti, ho chiamato, come ho fatto già altre volte, ai nostri microfoni Nino Cartabellotta. Nino, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ricordo che è un medico, innanzitutto Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, è uno dei più autorevoli esperti in questo momento che analizza il fenomeno Covid. Infatti sto vedendo, Nino, ti vedo sempre più presente e sono contento che i media si stiano accorgendo di questo tipo di attenzione. Ma non lo dico non tanto per amicizia quanto perché oggettivamente oggi io farò a te delle domande che mi pongo io e penso di interpretare le domande degli ascoltatori. Possono sempre chiamare all'800240024. Allora Nino, una parola che ci sta spaventando tutti e che viene continuamente riproposta è la parola soglia limite. Abbiamo visto, ci sono stati degli interventi che qualcuno giudica drastici, qualcuno giudica insufficienti, interventi però spot e soprattutto localizzati su regioni e territori. Secondo te, quali sono gli elementi innanzitutto che determineranno il sorpassare questa soglia limite, gli elementi oggettivi? Ma guarda Gianluca, il problema reale è che, come giustamente hai anticipato tu, un po' tutti, la politica, i giornali, le televisioni e le persone mutano, diciamo, quelle che sono le proprie sensazioni sull'andamento dell'epidemia attendendo i numeri del giorno, che, come abbiamo ripetuto più volte, hanno due problemi. Il primo sono legati ovviamente a quella che è la quantità di tamponi che vengono effettuati. Il secondo, meno noto, è che non rispecchiano quella che è la reale, diciamo, aggiornamento dei dati quotidiani. Cosa intendo questo? Che noi oggi andiamo a guardare dei numeri che risalgono a dei contagi avvenuti in media circa 15 giorni fa. Ecco, questo è un dato fondamentale da ribadire a tutti i radioascoltatori. Perché? Perché deve influenzare necessariamente le decisioni politiche. Cioè, se noi oggi pianifichiamo delle restrizioni guardando ai 16.000 contagi di ieri, dobbiamo ricordarci che quei 16.000 contagi di ieri sono avvenute 2 settimane fa, e quindi è evidente che noi dobbiamo fare una programmazione delle misure restrittive in funzione di quella che è una proiezione della curva a 15 giorni, perché altrimenti noi saremo sempre costretti a inseguire il virus. Quindi, in buona sostanza, qual è il potenziale effetto che le misure già introdotte potranno avere? Molto blando, sia perché le misure stesse sono blande, sia perché probabilmente non riusciremo nemmeno a vederle, perché saranno neutralizzate dalla crescita della curva dei contagi, che in questo momento ha assunto un andamento molto molto ripido. Ecco, non volendo utilizzare termini che poi richiedono delle spiegazioni tecniche, esponenziali, lineare, logaritmica, quadratica e quant'altro, cioè si vede proprio che la curva dei contagi sta aumentando in maniera molto ripida, come se stessimo scalando una montagna che ha un 30-40% di pendenza. Ma la cosa, devo dire, che Nino, adesso onestamente, tu l'avevi detto proprio a questi microfoni, due settimane fa, e la gente faceva le corna, si toccava, diceva siete uccelli del malaugurio. Oggettivamente è così, questo è un dato oggettivo, un dato su cui non si possono fare interpretazioni. Ma in questo momento come vedi te queste misure, che anche qui c'è una doppia valenza, una doppia lettura? C'è chi dice non serve a niente, è inutile, ci vorrebbe maggior rigore, chi dice è inutile colpire certe categorie, viene fatto in maniera strumentale, non servirà a nulla. Dato per scontato che sapremo fra 3 settimane se c'è stata una flessione dei dati rispetto a quello che è stato fatto oggi, questa disposizione sul territorio di diverse diciamo azioni a seconda delle esigenze che c'è al territorio, lo trovi che sia corretta? Allora, io trovo che non sia strategica, nel senso che io vedo che si sta facendo, e qua non è una responsabilità da addossare solo al governo ma anche alle regioni, quindi in generale, voglio dire, il mondo politico fa tattica e non fa strategia, perché adesso conosciamo come si muove il virus, quali sono le tempistiche, abbiamo i dati, sappiamo quali sono le modalità con cui stanno salendo le curve, quindi l'effetto sorpresa di marzo oggi non è più giustificabile. E se è vero che i cittadini hanno una responsabilità importante nel prevenire la risalita della curva dei contagi, l'impatto complessivo è ridotto anche da altri due elementi che non sono meno importanti. Uno è l'adeguato potenziamento dei servizi territoriali prima e ospedalieri poi, perché, come ti ho già detto l'altra volta, la scialuppa di salvataggio della seconda ondata non sono le terapie intensive, ma sono i tamponi, il sistema di tracciamento, i servizi epidemiologici, e poi quella che è una visione comune delle azioni da intraprendere, da quella che deve essere una leale collaborazione tra governo, regione ed enti locali. Se questi tre pilastri, comportamento individuale, risposta sanitaria adeguata e sintonia tra tutte quelle che sono le forze decisionali di tipo politico, c'è un tavolino a tre gambe con gambe che traballano, è evidente che a vincere è soltanto una persona, o meglio un virus, il SARS-CoV-2, e questo è quello che di fatto si è verificato nel corso di questa prima parte dell'autunno, perché tutti sapevamo che la curva sarebbe cresciuta, ma è evidente che non immaginavamo probabilmente che il sistema di tracciamento territoriale sarebbe saltato. C'è anche illustri clinici che dicevano che il virus era praticamente clinicamente morto, che ormai si era in qualche maniera attenuato Oggi non so cosa dicono più, però era circolata detto, questa lettura comunque sia, se n'era discusso. Come ho già ripetuto più volte, io mi prendo la responsabilità delle cose che dico, ma non posso esprimere giudizio sulle responsabilità delle parole degli altri. Sì, questo però diciamo non era clinicamente morto, questo mi sembra un dato oggettivo, ecco, non è che si era né attenuato né mutato in maniera meno offensiva. Tutti i ragionamenti che sono stati fatti in un momento di abbattimento importante della curva epidemica, delle cariche virali basse, del virus, della debole positività dei tamponi, dell'adattamento del virus all'ospite, della minore aggressività, erano tutte solo riconducibili, come anche le mie dichiarazioni di quel periodo possono documentarlo, esclusivamente a quelli che erano gli effetti di un lockdown lungo, rigoroso e con riaperture graduali. Noi siamo stati molto più bravi degli altri paesi europei perché abbiamo portato la curva dei contagi a un livello molto basso, solo che quando eravamo arrivati a fine luglio con 1400 casi settimanali, quindi 200 al giorno, quello era il momento in cui, appena la curva è cominciata a risalire, bisognava spegnere ogni microfocolaio sul nascere. Ma per fare questo ci volevano servizi epidemiologici adeguatamente attrezzati, una quantità di tamponi da effettuare enormemente superiore a quella che stiamo facendo, e non avere già i tamponi rapidi a disposizione, il cui bando straordinario è partito praticamente ai primi di ottobre. È ovvio che se tutto questo ha creato una pausa estiva di circa 2-3 mesi, tra quelle che sono un po' le aspettative che avevano le persone di riprendersi le proprie libertà, tra una pausa che anche il mondo della riorganizzazione sanitaria si è preso e quello della politica pure, adesso è ovvio che la seconda ondata, la prima diciamo l'abbiamo subita, la seconda un po' l'abbiamo facilitata, l'abbiamo agevolata e qualcuno dice ce la siamo meritata. Ecco, sentiamo Alberto da Torino, che mi sembra sia un medico. Alberto, buongiorno. Buongiorno, sì esatto, sono un ragazzino di 75 anni per la precisione, nonché un medico, nonché professore universitario di pediatria e mi sono occupato di virologia e malattie infettive nella mia professione, ma non c'entra niente questo. Io parlo da un punto di vista più filosofico con lei, Nicoletti, che è una persona con la mente aperta. Quando ho iniziato la professione, c'erano diverse epidemie di influenza, malattie, si moriva di morbillo, si moriva di tante cose. Però la morte veniva accettata come una cosa naturale. Una persona di 75-80 anni si prendeva l'influenza, moriva per le complicanze, non si diceva oddio è morto di influenza, cosa facciamo? Ma le Ravei, in piemontese, era vecchio, è morto di influenza, era la sua ora. Noi adesso abbiamo un rapporto con la morte assurdo, non esiste più. Io guardo sulle cartelle cliniche che seguo, non c'è più nessuno che muore di vecchiaia, nessuno. Muoiono tutti con qualche patologia, con qualche diagnosi, certe volte anche così. Se non sai cosa fare, inventi il collasso cardiocircolatorio. Va sempre bene un collasso cardiocircolatorio alla salute. E cose di questo genere. E la popolazione che non accetta più il fatto che la vita è una malattia mortale e che quindi prima o poi si arriva e che una persona a 80 anni è destinata a morire a breve comunque. È inutile che si non muore di Covid. Sarà uno dei 5.000 morti quest'inverno che moriranno di influenza, un'influenza banale, l'H1N1. Scusa Alberto, dottor Alberto, questa riflessione in termini generali ha un suo valore filosofico. Il memento mori è sempre stata una dei punti forti di tutte le visioni extramondane, ricordati che devi morire, perfetto. Ma non trova che in questo momento c'è una fattispecie lievemente diversa rispetto alla fatalità, che una persona a una certa età è giusto e naturale che muoia, e non trova che tutta la scienza medica nel suo evolversi in realtà ha sempre stato un tentativo di rendere migliore la vita e di, per quanto possibile, attenuare le intemperie del tempo che passa? Cioè, se no un medico a un certo punto, chi ha più di 70 anni nemmeno dovrebbe andare più, dice che vada a far dal dottore, tanto mi tocca morire. Non so quanti sarebbero d'accordo con lei. Ecco, come applica questa sua visione all'attualità che stiamo vivendo? Stiamo dando dei numeri, stiamo parlando di popolazione preoccupata, di giovani che comunque sono colpiti da questa evidenza. Può dare un senso di necessaria fatalità a quello che sta accadendo per la sua esperienza? Sì, dunque allora, quando c'è stata l'epidemia di spagnola, lasciamo perdere, io non ne ho ancora dato da mo', però io ho vissuto l'asiatica con le centinaia di migliaia di morti. Mi ricordo quando c'era l'asiatica, mio padre era pure lui medico, l'unica volta che l'epidemia è venuta sui giornali è quando la Fiat ha chiuso le catene di montaggio al Lingotto perché metà degli operai erano malati. E l'asiatica era più brutta perché colpiva i giovani. Io adesso mi trovo in una situazione per cui noi, per allungare la vita di noi anziani di un anno, due, manco quello forse, stiamo buttando via il futuro dei nostri figli. Allora, solo una battuta, Alberto, una sola battuta, poi do la linea e la commenterà Nino Cartabellotto e l'ascolterà. Se lei fosse in questo momento il consulente plenipotenziario del nostro governo, cosa farebbe fare dall'oggi al domani, alla luce di questa sua convinzione, che rientra in una sua sorta di fatalismo, i vecchi hanno da morire per fare spazio ai giovani, quindi cosa farebbe in questo momento? Avesse pieno potere, le do pieno potere in questo momento, Alberto. Mi dica come cambierebbe quello che sta accadendo. Sì, metto tutte le mie forze nel proteggere la fascia fragile degli anziani, perché io non voglio farli morire, non voglio che, caspita, il mio mestiere è salvare la gente, non è uccidere. Però metterei praticamente in lockdown tutti i vecchi over 65, obbligati. Quindi anche io dove stare nel lockdown? Tutti stare in lockdown? Solo perfetto. Per loro, solo per loro. E invece il resto della popolazione, sa che meno dell'un per mille dei morti a meno di 50 anni, secondo le statistiche. Vabbè, questa è, diciamo, la proposta del dottor Alberto da Torino, fare una sorta di internamento di tutti gli anziani, di cui anch'io faccio parte. Se questo servisse a salvare il mondo, non avrei difficoltà ad accettarlo, considerato che gli over 65 sono parte integrante anche, non so se bene o male, della nostra classe dirigente, degli scienziati che stanno lavorando a questa cosa qua, tutti a casa, gli altri continuano la vita così come stanno facendo e non ci si dimentica del coronavirus. Ci fermiamo un istante, intanto rifletta Nino Cartabellotta, poi rispondiamo al dottor Alberto che ha detto qualcosa che comunque serpeggia come idea generale nella popolazione, è giusto rispondere. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog 800240024, grazie a Valeria Bernardi, a Lorenzo Nespoli e Fabrizio Intonti che collaborano alla mia messa in onda. Ricordo che abbiamo in collegamento Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, che sta dandoci un'idea, secondo un'analisi oggettiva dei dati rispetto al Covid-19, ha telefonato un ascoltatore, un dottore di Torino, che ha dato una sua soluzione. Se lui fosse plenipotenziario, imporrebbe il lockdown coatto per tutte le persone over 65, che sono le più esposte, secondo lui, al virus, e gli altri continuano una vita normale. Io per primo dico che se questa fosse la soluzione per tutti, io mi metterei volentieri in isolamento, me ne starei fuori dal mondo, lontano dalla famiglia, lontano dagli affetti, da qualunque cosa, se questo servisse. Ricordo, lo leggo su Repubblica, è uscito poco fa, che 100 scienziati hanno scritto al presidente Conte, al presidente Mattarella, chiedendo misure drastiche. Non sono 100 persone che hanno studiato la scuola radioelettra, ci sono il capofila, il presidente dei Lincei, Giorgio Parisi, c'è il direttore della Normale di Pisa, professor Luigi Ambrosio, Ferroni, l'ex presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sono scienziati, ricercatori, professori, dicono al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, è necessario contemporaneamente alle esigenze dell'economia, della tutela dei posti di lavoro, del contenimento, della diffusione del contagio, avere misure più drastiche, perché quelle attuali non servono a nulla. Allora, Nino Cartabellotta, un commento a quello che ha detto il dottor di Torino, che abbiamo lasciato esprimere, a cui abbiamo lasciato esprimere la sua opinione, perché è quella che probabilmente è condivisa da molti. Ricordo che a Israele si dice, questo fosse il modello israeliano, si diceva a marzo, chiudiamo tutti gli anziani dentro e lasciamo spazio agli altri. Non mi pare che Israele in questo momento sia messa molto meglio di noi, anzi ci ha anticipato di un mese, ha dovuto richiudere tutte le scuole e rimporre il lockdown. Nino Cartabellotta. Ma intanto va precisato che non corrisponde al vero che si muore solo se si è oltre una certa età, perché io qua davanti la tabella della ufficiale dell'Istituto di Sanità. È vero che prima dei 50 anni i morti sono stati molto pochi, ma non pochissimi, 320 nella fascia 40-49, 70 in quella 30-39 e 15 in quella 20-29. e poi anche nella fascia a 60-69, che sta un po' a metà, diciamo, dalla così soglia di protezione suggerita dal collega, ci sono 3.629 decessi. Il problema fondamentale dove sta? Che noi spesso in questa fase abbiamo confuso quella che è la gravità clinica della malattia con quello che è il suo controllo epidemiologico, perché la gravità clinica della malattia ovviamente poi si esprime prevalentemente in soggetti più anziani, quindi oltre 65 anni, che hanno soprattutto patologie multiple, determinandone poi un aggravamento e qualche volta il decesso. Il vero problema invece è quanto... Dionino, poco sappiamo anche degli strascichi che lascia questo tipo di problema. Questi non li conosciamo, perché ancora a medio e lungo termine non sappiamo nulla. Ma il vero problema è che questa espressione clinica non si può confondere con il controllo epidemiologico, perché quando poi il controllo epidemiologico salta, vanno in tilt prima i servizi sanitari territoriali, e questo argine è già saltato nella maggior parte delle regioni, e poi vanno in sovraccarico gli ospedali. Che cosa significa questo? Che al di là di quelli che possono essere suggerimenti di mettere in lockdown una categoria anagrafica di persone, tutto il resto poi inevitabilmente, nel momento in cui diventa una quantità enorme, finisce per determinare dei sovraccarichi prima territoriali e poi ospedalieri. E ricordiamoci che non esiste solo il Covid, perché se noi riempiamo nuovamente le terapie intensive di malati Covid, il tasso di letalità, di mortalità, aumenterà per tutte quelle altre patologie per le quali noi non riusciremo a offrire un'adeguata assistenza. Quindi, che ha un tumore, deve fare controlli, terapie, questo è un altro dei problemi, si trova ad essere messo in secondo piano rispetto all'emergenza Covid molte volte. Esattamente, cioè l'emergenza Covid bisogna gestirla mantenendo basso il numero dei contagi, è quello che si chiama flettere la curva, cioè non fare superare quello che è la capacità di risposta dei servizi sanitari, ripeto, prima territoriali e poi ospedalieri. Il primo argine purtroppo è saltato in buona parte delle regioni, proprio perché, come ti dicevo poco fa, nella fase in cui noi dovevamo approfittare, perché il virus aveva una circolazione molto contenuta, parliamo dalla fine di luglio, primi di agosto, non è stata fatta quell'attività di potenziamento adeguato del sistema di testing e di tracing, tanto che ieri, solo ieri, il ministro Boccia ha annunciato che saranno assunte 2.000 persone per fare il testing e il tracing. Signori miei, il testing e il tracing ormai è saltato, bisogna passare a una fase di contenimento successiva. Quindi, è quindi tu dici che Nino che è inutile assumere 2.000 persone per un'attività che ormai risulta obsoleta rispetto all'emergenza. Il tracciamento è sempre utile, perché questi rimangono nei servizi territoriali, perché la faccenda è che non è finita domani mattina, però è evidente che questo andava fatto qualche mese prima, nel momento in cui questi dovevano cominciare a fare l'attività di tracciamento. Adesso che la diga è saltata è sempre utile, ma noi adesso vediamo che il rapporto tra positivi e casi testati ormai è talmente alto che è impossibile, con il numero dei casi che abbiamo, fare il tracciamento. Cioè, teniamo conto che noi abbiamo un numero di soggetti attualmente positivi che alla giornata di martedì, quella diciamo del nostro ultimo monitoraggio, era di 142.000, adesso abbiamo superato i 160. Se noi consideriamo mediamente 10 contatti a persona, significherebbe tracciare 1.600.000 persone, cosa che nessun servizio epidemiologico oggi potrebbe mettere in atto. Quindi oggi, ecco, tu hai detto è caduto il primo argine. Quale sarebbe il successivo argine che potrebbe cadere, e cosa accadrebbe se cadesse quest'altro argine, la cosiddetta soglia limite? Il successivo argine è quello ospedaliero, perché la cosa, diciamo, curiosa per certi versi ma interessante dall'altra, è che l'andamento delle curve attualmente positivi, ricoverati con sintomi, terapie intensive e decessi, hanno tutto lo stesso andamento nelle ultime due settimane. Quindi cosa significa? Che gonfiandosi il palloncino con l'incremento progressivo dei nuovi casi, aumentano parallelamente anche i ricoverati con sintomi e anche le terapie intensive, che però rispetto a chi sta in isolamento domiciliare hanno un collo di bottiglia, che è quello che dei posti letto, e quando i posti letto si saturano comincia ad incrementare la letalità a livello ospedaliero. Quindi c'è una sorta di punto di non ritorno. Il problema è che la politica deve decidere qual è il numero magico dopo cui, una volta raggiunto il quale, si decide di attuare delle misure più drastiche, e credo che quanto il professor Parisi e gli altri scienziati abbiano richiesto in questa lettera parta dalle stesse considerazioni, perché anche l'Accademia dei Lincei 2-3 giorni fa mi sembra che abbia fatto una proiezione dei decessi a metà novembre, che ovviamente vanno esattamente nella direzione di cui ti parlavo poco fa. Cioè, il punto quindi, di non ritorno secondo te, è... secondo te, diciamo, i vertici delle nostre istituzioni, che è il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, dovrebbero tener conto di questa lettera dei 100 scienziati? Assolutamente sì, ma peraltro voglio dire, è anche quello che noi con i nostri monitoraggi settimanalmente chiediamo, attraverso, diciamo, al di là di appelli alle singole istituzioni, voglio dire, la crescita esponenziale del contagio porta poi verso questo collo di bottiglia che finisce per sovraccaricare gli ospedali ed incrementare la letalità, perché al di là, diciamo, di ogni ragionevole dubbio, non è che in Lombardia abbiamo avuto tutti quei morti perché il virus era più aggressivo più letale in quel periodo dell'anno, ma perché gli ospedali hanno vissuto un sovraccarico tale che non hanno permesso al personale ovviamente di gestire tutta questa enorme quantità di persone che arrivavano nella stessa unità di tempo. Se non si abbassa la pressione sui servizi sanitari, si aggrava l'esito della malattia. Ci fermiamo ancora per le notizie della borsa, riprendiamo tra un istante. Melog 800240024, sentiamo qualche ascoltatore, poi Nino Cartavellotta, che pure aveva un impegno, comunque è rimasto con noi, così alla fine avremo un commento anche su quello che dicono gli ascoltatori. Valentino da Terni, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. L'ascolto. Senta, io sono un settantenne, quindi sono stato chiamato in causa da una precedente telefonata di un dottore. Io, se la cosa fosse dimostrata valida, starei tranquillamente a casa, ma non mi sembra che sia questa la strada. Anche perché non basterebbe stare a casa, noi dovremmo, noi anziani, stare isolati anche dalla famiglia, lei non dovrebbe più vedere né figli, né moglie, né parenti, né lavorare più, perché a meno che non possa fare un lavoro che può farlo da un posto isolato, perché non basterebbe che se poi le persone in famiglia continuano a uscire a fare una vita normale, finisce questo tipo di isolamento. Quindi l'idea del dottore, che è un'idea che qualcuno ogni tanto accarezza, ripeto, fosse la soluzione, probabilmente ci si dovrebbe anche pensare, però sarebbe un po' difficile a questo punto bloccare tutti i cittadini italiani che hanno più di 65 anni, isolarli dal resto del mondo, e avrebbe secondo me anche questo un costo. Marcello da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, è un discorso un po' pesante e guarda un po' il futuro prossimo. Non le pare che quello che è stato fatto in Cina con un numero notevolissimo di persone, e che adesso, se è vero quello che vediamo alla televisione, tutti girano anche senza mascherina, a livello europeo gli ordini militari, la massoneria, i servizi segreti, la magistratura, mi perdoni, mi faccia finire, si divertirà. Cioè, infatti mi sto già divertendo. Pensa che a questo punto, con 40.000 infettati in Francia, che è uno dei posti più forti che esiste, non ci siano dei militari che stanno pensando che tutto sommato questi governi non sono capaci e possono subentrare. Scusi, ma è una cosa che mi colpisce moltissimo. Guardi cosa è successo in Cina. La ringrazio, è stato molto gentile. No, Marcello, fermiamoci, ma io faccio parlare tutti, le dico il mio parere su questo. Quello che succede in Cina non lo sappiamo, non lo sapremo mai, non sapremo mai con esattezza quanto ci sia di totalmente veritiero rispetto a quello che è stato detto prima e quello che viene mostrato adesso. È indubbio che sembra che da loro le cose vadano meglio. In Cina c'è un regime in cui possono decidere e imporre alle persone dei comportamenti. Da noi bisogna mediare, comunque sia. Se avessero potuto imporre in maniera dispotica, con una linea comune, senza temere poi la perdita del consenso e dare ascolto anche a quella che è un'alternativa, un'opposizione in campo politico, probabilmente avremmo chiuso tutto, tenuto chiuso, blindato fino a settembre, e probabilmente oggi staremmo meglio. Però la differenza fra una democrazia e uno stato dispotico è questa. Sulla seconda parte del suo intervento ci sia un grande complotto internazionale che giocherà in maniera strumentale sul disagio per intervenire e riportare l'ordine. Guardi, questa è una cosa che sento dire dagli anni 70. Negli anni 70 si diceva, in ragione degli attentati, della diffusione del terrorismo, che prima o poi tutti si aspettavano o tutti pensavano che fosse una manovra artatamente fatta per imporre poi un regime dispotico. Fa parte di un pensiero. In questo momento però vorrei parlare di qualcosa di razionale, non di quello che è un'ipotesi. Diego da Milano. Diego? Buongiorno. Cioè, Diego. Sì. Ho tolto di la voce, buongiorno. Grazie dell'ospitalità. La mia telefonata si pone nel solco, non vorrei farvi perdere tempo, del medico di Torino che ha chiamato prima. Volevo soltanto chiedere a lei, al suo ospite, se è stata fatta un'analisi dei costi e benefici di quelle che sono le misure intraprese su quelle che saranno poi le ripercussioni sulle categorie, sui giovani, su noi stessi, sull'economia, sulla capacità di socializzare, sulla scuola in presenza, tutte queste cose che voi sapete benissimo. Io ho un suocero di 85 anni cardiopatico e una madre di 77 con un tumore risolto. Però le dico la verità, io non chiederei mai a lei o al dottor Cartabellotta di rimanere 3 mesi in casa chiuso o di impedire. Ma io sono vecchio, io ci dovrei rimanere comunque a casa, guarda, esatto, non sono un ragazzino. No, ma lei sono vecchio. Vabbè, ok, non so, a suo figlio, ok. O al dottor Cartabellotta di rimanere in casa per salvare il suo geto. Sì, è il solito discorso, però secondo me il problema non va posto in questa maniera. In questo momento l'emergenza è un'altra. Non so se è d'accordo Nino Cartabellotta. Non è capire quale parte della popolazione vada sacrificata in nome del mantenimento comunque di una quasi normalità sociale, economica e via dicendo. È come è possibile arginare un'epidemia che oggettivamente è presente. Mi sbaglio, Nino? Sì, però va aggiunta una precisazione alla tua corretta considerazione. Il fatto che in questo momento noi non ci troviamo di fronte a una prima ondata improvvisa, ma ci troviamo di fronte a una seconda ondata dove si poteva fare di più, sia come cittadini, sia come istituzione, sia come servizi sanitari. E quello che diceva il collega, forse non era medico, il signore comunque che ha parlato poco fa, è una cosa molto importante, perché noi in questo momento stiamo facendo tutte le valutazioni su quelli che sono gli aspetti da un lato sanitari, dall'altro economici. Ci stiamo preoccupando poco di quelli sociali, di quelli comportamentali e di quelle conseguenze sulla salute di tipo psicologico, psichiatrico, che in questo momento nessuno ha preso in considerazione, se non in maniera teorica, piuttosto che, voglio dire, andare a fare poi... Ma che indubbiamente è un problema... Non secondario. È un problema enorme, perché tutto quello che è l'impatto di un'eventuale richiusura delle scuole è evidente che avrà, diciamo, una conseguenza non piccola rispetto a quelle che sono, diciamo, lo sviluppo psicofisico, voglio dire, di questi ragazzi. Nino, ma ognuno di noi sa che la sua vita, che è cambiata in questi ultimi mesi, in qualche maniera ha delle ripercussioni sulle nostre relazioni sociali, sul nostro quotidiano, sulla nostra resa sul lavoro. Nessuno è inconsapevole di questo, penso. È proprio così, però comincerei a pensare, visto che i tempi si allungano e soprattutto rispetto a quella che era un po' la prima ondata, dove noi comunque avevamo come la fine del lockdown, il momento, diciamo, della nostra primavera, adesso ci aspetta un inverno lungo o buio per tutta una serie, diciamo, di previsioni che vediamo peraltro anche da giorno in giorno, e la nostra mente probabilmente fa anche fatica ad accettare quella che è la impossibilità di vedere quando tutto questo finirà, per cui bisogna un po' stracciarsi le maniche e provare a collaborare tutti con la massima aderenza a quello che viene raccomandato. Però attenzione, e questo lo ribadisco come l'ho fatto anche in maniera, diciamo, dura con i nostri comunicati, le istituzioni non possono e non devono scaricare tutto sulla responsabilità istituzionale individuale dei cittadini, perché ci sono delle cose che si possono fare, ma bisogna metterle in campo abbastanza rapidamente, perché ogni giorno di ritardo rischia di creare dei problemi di salute non indifferenti alla nostra popolazione. Ringrazio Nino Cartabellotta, ringrazio chi ha partecipato a questa trasmissione. Come sempre cerchiamo di dare un piccolo contributo alla ragionevolezza, soltanto questo, senza prendere posizioni. Alla prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.